italiana, quindi piatti pronti, freschi di non surgelati, e quindi tutto esce con la logistica dello 0+4, come la maggior parte dei nostri salumi, e lì abbiamo un'azienda che si chiama PFI, Piatti Freschi Italia, che esce con il marchio Viva la Mamma Beretta, Viva la Mamma Beretta, e lì abbiamo 4 stabilimenti, oltre 300 dipendenti, e siamo leader di mercato nella gastronomia fresca in Italia. Siamo in compartecipazione ormai da 15 anni. È nata da una buona relazione con Fleury Michon, fiducia reciproca e quindi gestione nostra. Funziona bene perché gli investimenti che abbiamo fatto, prima siamo partiti con una fabbrica, abbiamo fatto un grosso investimento, abbiamo acquisito una società che aveva 3 fabbriche. Loro sono un'azienda molto seria, leader in Francia nei piatti freschi, quindi molto un know-how iniziale loro, poi in seguito la ricettazione italiana e quindi piatti freschi, piatti lasagne, cannelloni, minestre, passati, quindi i pasta, poi l'intuizione dei pasta box e lì una fabbrica, poi c'è una fabbrica che fa la classica gastronomia fresca, maionese, insalate russe, pesce tutto da sott'olio, ma fresco. Poi c'è un'altra fabbrica che fa tramezzini, dove noi siamo leader di mercato nei tramezzini, quindi è un'azienda complessa. Poi un'altra fabbrica, la quarta fabbrica, l'ultima diciamo sviluppata, fa panini, focaccine, eccetera, pronti con i salumi o formaggi. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.